Capitolo 51. Nessun pettegolezzo sul testamento di Mr. Casaubon era ancora giunto alle orecchie di Ladislav. L'atmosfera sembrava piena dello scioglimento del Parlamento e delle elezioni prossime, come le veglie e le fiere di un tempo erano piene degli schiamazzi rivali di spettacoli itineranti, e si faceva poco caso ai rumori più personali. Le famose elezioni all'asciutto erano alle porte e la profondità dell'opinione pubblica si poteva misurare dal basso livello delle bevute. Will Ladislav era uno dei più occupati in questo momento e sebbene la vedovanza di Dorotea fosse di continuo presente al suo pensiero, egli era così alieno a desiderare che gli parlassero dell'argomento che quando Lydgate lo cercò per dirgli cosa, si erano detti sulla parrocchia di Lowick e gli rispose in tono piuttosto stizzoso. Perché mi dovevate immischiare nella faccenda? Non vedo mai Mrs. Casaubon ed è probabile che non la incontri dato che sta a Freshitt. Non ci vado mai. Quella è una roccaforte, Tori, dove io e il Pioneer non siamo più ben accetti di un bracconiere col suo fucile. Il fatto era che Will era divenuto ancora più suscettibile dopo aver notato che Mr. Brooke, invece di desiderare come in precedenza che andasse alla Grange più spesso di quanto gradiva, ora sembrava fare in modo che egli vi si recasse il meno possibile. Questa era una equivoca concessione di Mr. Brooke alle indignate rimostranze di Sir James Chatham e Will, conscio di ogni minimo accenno in questo senso, concluse che egli doveva venire tenuto lontano dalla Grange a causa di Dorotea. I parenti di lei, allora, lo guardavano con un qualche sospetto. I loro timori erano del tutto superflui. Si sbagliavano di grosso se immaginavano che egli volesse farsi avanti come un avventuriero bisognoso che tenta di guadagnarsi i favori di una donna ricca. Fino ad allora Will non si era reso pienamente conto dell'abisso fra lui e Dorotea. Fino ad allora, quando giunse all'orlo, sull'orlo di esso e vide lei dall'altra parte. Cominciò, non senza una certa rabbia in cuore, a pensare di andarsene da quel luogo. Gli sarebbe stato impossibile mostrare ancora interesse per Dorotea senza esporsi a sgradevoli accuse. Magari anche nel pensiero di lei, che altri avrebbero potuto tentare di avvelenare. Siamo divisi per sempre, disse Will. Tanto varrebbe che fossi a Roma e non sarebbe più lontana da me. Ma quella che chiamiamo la nostra disperazione spesso è solo la dolorosa impazienza di una speranza non alimentata. Vi erano 100 motivi perché egli non se ne andasse, motivi politici per cui non doveva lasciare il proprio posto durante questa crisi, abbandonando Mr. Brooke quando invece aveva bisogno di essere preparato per le elezioni e quando era necessario fare tanta propaganda diretta e indiretta. A Will non poteva piacere abbandonare le proprie pedine nel fervore di una partita a scacchi e qualsiasi candidato dalla parte giusta, anche se avesse avuto il cervello e l'animo malleabili, come si addiceva al carattere di un gentiluomo, poteva contribuire a formare una maggioranza. Istruire Mr. Brooke e tenerlo fermamente ancorato all'idea che doveva impegnarsi a votare per l'attuale progetto di legge di riforma elettorale, invece di insistere sulla propria indipendenza e facoltà di fermarsi a tempo, non era un compito facile. La profezia di Mr. Fairbrother di un quarto candidato nel sacco non si era ancora avverata, né l'associazione dei candidati al Parlamento, né alcun'altra forza politica allerta per assicurarsi una maggioranza riformista vedevano un motivo valido per interferire. Quando c'era un secondo candidato riformista come Mr. Brooke, che poteva essere eletto a proprie spese, e la lotta si svolgeva interamente fra Pinkerton, il vecchio parlamentare Tory, il nuovo parlamentare Whig, Baxter, eletto all'ultima consultazione, e Brooke, il futuro parlamentare indipendente che si sarebbe imposto un freno solo in questa occasione. Mr. Haley e il suo partito avrebbero messo in campo tutte le loro forze per l'elezione di Pinkerton e il successo di Mr. Brooke doveva dipendere o da sostenitori che avrebbero lasciato Bankster alla retroguardia o dalla trasformazione di voti Tory in voti riformisti. Quest'ultima soluzione naturalmente sarebbe stata preferibile. La prospettiva di convertire voti rappresentava una pericolosa perplessità per Mr. Brooke. La sua impressione che gli indecisi probabilmente sarebbero stati attirati da dichiarazioni incerte e anche la tendenza della sua mente ad aderire di bel nuovo ad argomenti contraddittori mentre questi gli venivano a mente, davano a Ladislav notevoli preoccupazioni. Sapete che ci sono delle tattiche in queste cose, disse Mr. Brooke. Venire incontro alla gente a metà strada, temperare le proprie idee, dire: Ecco, c'è del vero in quello che dite e così via. Sono d'accordo con voi che questa è un'occasione particolare, il paese con una sua volontà, i comitati politici, cose di quel genere. Ma qualche volta tagliamo con un coltello alquanto troppo affilato l'Adisla. Questi capi famiglia con 10 sterline, ecco. Perché 10? Tracciamo un limite, questo sì, ma perché proprio 10? Questa è una questione difficile, ecco, se ci pensate bene. Certo che lo è. Disse Will con impazienza. Ma se volete aspettare finché non avremo una legge logica, dovrete presentarvi come un rivoluzionario. E allora Middlemarch non vi eleggerebbe, immagino. Quanto alle rifiniture, questo non è il momento adatto per le rifiniture. Mr. Brooke finiva sempre per concordare con Ladislav, il quale gli sembrava una specie di barca con un pizzico di scelli. Ma dopo breve tempo la saggezza dei propri sistemi si imponeva nuovamente ed egli era trascinato ad usarli con molta fiducia. A questo stato delle cose era assai di buon umore, il che lo sostenne anche quando dovette anticipare grosse somme di denaro. Infatti la sua capacità di convincere e di persuadere non era stata ancora collaudata da nulla di più difficile di un discorso in qualità di presidente per presentare alcuni oratori. O di un dialogo con un elettore di Middlemarch, da cui uscì con la sensazione di essere naturalmente dotato di capacità tattica, e che era un peccato che non si fosse dedicato prima a questo genere di cose. Avvertì tuttavia un certo senso di sconfitta con Mr. Mosey, uno dei principali rappresentanti a Middlemarch di quella grande forza sociale che era il commercio al dettaglio e per natura uno degli elettori più incerti della circoscrizione. Desideroso per parte propria di fornire una qualità uguale di tè e di zucchero al riformatore e all'antiriformatore, oltre a concordare imparzialmente con entrambi. Inoltre condivideva l'opinione dei borghesi di un tempo che questa necessità di eleggere dei parlamentari era un grande onere per la città, perché anche se non c'era alcun pericolo nell'offrire speranze a priori a tutti i partiti, alla fine si sarebbe presentata la dolorosa necessità di deludere delle persone rispettabili cui i nomi figuravano fra i suoi clienti. Era abituato a ricevere grosse ordinazioni da Mr. Brooke di Tipton, ma d'altra parte c'erano molti del comitato sostenitore di Pinkerton, le cui opinioni avevano dalle loro grandi ordinazioni di generi di drogheria. Mr. Mosey, pensando che Mr. Brooke, in quanto non troppo sveglio nelle sue facoltà mentali, fosse il più propenso a perdonare un droghiere costretto a dargli un voto ostile, si era lasciato andare a delle confidenze nel salotto sul retro. Quanto alla riforma, signore, mettetela sotto una luce domestica, egli disse, facendo risuonare le piccole monete d'argento che aveva in tasca e sorridendo affabilmente. Darà un sostegno a Mrs. Mosey e le consentirà di allevare 6 figli quando io non ci sarò più? Pongo la domanda immaginariamente, sapendo quale deve essere la risposta. Molto bene, signore. Io vi chiedo, come marito e padre, cosa devo fare quando dei gentiluomini vengono da me e mi dicono: fate come volete, Mosey, ma se voterete contro di noi mi procurerò altrove genere di drogheria. Quando metto dello zucchero nel mio liquore, mi piace sapere che sto beneficiando il paese mantenendo dei commercianti del colore giusto. Queste identiche parole mi sono state dette, signore, da quella stessa sedia su cui siete seduto, non dalla vostra onorevole persona, Mr. Brooke. No, no, no, no, questa è ottusità, capite? Finché il mio maggiordomo non si lagnerà con me della vostra merce, Mrs. Mosey, disse Mr. Brooke in tono rassicurante, finché non sentirò che mi mandate dello zucchero e delle spezie di cattiva qualità, roba di quel genere, non gli ordinerò mai di andare altrove. Signore, sono il vostro umile servitore e assai obbligato, disse Mr. Mosey, con la sensazione che la sua fede politica si chiarisse un po'. Ci sarebbe un certo piacere a votare per un gentiluomo che parla in quel modo onorevole. Beh, capite, Mr. Mosey, vi accorgereste che fareste una cosa giusta a schierarvi dalla nostra parte. Questa riforma fra poco coinvolgerà tutti, una misura completamente popolare, una specie di ABC, capite, che deve venire prima che segua il resto. Sono del tutto d'accordo con voi, bisogna guardare la cosa sotto una luce domestica, ma lo spirito sociale, ecco, siamo tutti una sola famiglia, capite? È tutta un'unica dispensa. Una cosa come un voto, ecco, ma si può contribuire a fare le fortune degli uomini al capo di buona speranza. Non si può sapere quale possa essere l'effetto di un voto, concluse Mr. Brooke, con la sensazione di essere un po' confuso, sebbene trovasse la cosa ancora piacevole, ma Mr. Mosey rispose in tono deciso. Vi chiedo scusa, signore, ma questo non posso permettermelo. Quando do un voto devo sapere quello che sto facendo, devo tenere presente quali saranno gli effetti sulla mia cassa e il mio libro mastro, con rispetto parlando. I prezzi, lo ammetto, sono una cosa di cui nessuno è in grado di entrare nel merito e i cali improvvisi, dopo che vi siete approvvigionato di uva sultanina, che è una merce che si deteriora, neppure io ho mai studiato i dettagli di questa cosa. Il che è un rimprovero per l'orgoglio umano. Ma quanto all'idea di un'unica famiglia, ci sono un debitore e un creditore, spero. Non spazzeranno questa differenza con la riforma, altrimenti voterei perché le cose restassero come sono. Pochi uomini hanno meno bisogno di me di invocare cambiamenti, parlando personalmente, cioè per me stesso e la mia famiglia. Non sono uno di quelli che non hanno niente da perdere io. Voglio dire, quanto a rispettabilità negli affari privati e comunali, e in nessun modo riguardo alla vostra onorevole persona e alle vostre ordinazioni, che siete stato così buono da dire che non mi avreste tolto voto o non voto finché la merce inviata fosse stata soddisfacente. Dopo questa conversazione, Mr. Mosey salì dalla moglie e si vantò di essere stato troppo forte per Peruche di Tipton e che adesso non era tanto preoccupato di andare a votare. Mr. Brooke in questa occasione si astenne dal vantarsi della propria tattica con Ladislav, il quale per parte sua fu abbastanza lieto di persuadersi di non essere coinvolto in alcuna propaganda elettorale, tranne quella puramente polemica, e che egli non si serviva di strumenti più volgari che quelli della conoscenza. Mr. Brooke, necessariamente, aveva i suoi agenti che conoscevano la natura dell'elettore di Middlemarch e i mezzi per ottenere l'appoggio della sua ignoranza a favore del disegno di legge. Mezzi che erano eccezionalmente simili a quelli per ottenere il suo appoggio contro il disegno di legge. Will si tappò le orecchie. In certi momenti il Parlamento, come il resto della nostra vita, fino al modo di mangiare e di vestirsi, non potrebbe procedere se la nostra immaginazione fosse troppo vivida riguardo ai processi. Al mondo c'erano un sacco di uomini dalle mani sporche per fare il lavoro sporco e Will dichiarò a se stesso che la sua parte nelle elezioni di Mr. Brooke sarebbe stata assolutamente senza macchia. Ma egli era assai dubbioso se sarebbe riuscito in quel modo a contribuire alla maggioranza del partito giusto. Aveva scritto vari discorsi, appunti per discorsi, ma aveva cominciato ad accorgersi che la mente di Mr. Brooke, se avesse avuto l'obbligo di ricordare ogni successione dei propri pensieri, li avrebbe lasciati cadere. Sarebbe corsa via la loro ricerca e non sarebbe facilmente tornata indietro. Raccogliere documenti è un modo di servire il proprio paese e ricordare il contenuto di un documento è un altro. No, l'unico modo in cui Mr. Brooke poteva essere costretto a pensare alle argomentazioni giuste, al momento giusto, era di essere completamente assorbito in esse finché non avesse occupato tutto lo spazio del suo cervello. Ma qui si presentava la difficoltà di trovare spazio. Tante erano le cose che vi erano state ammassate in precedenza. Mr. Brooke stesso ebbe a osservare che le sue idee gli erano piuttosto di impaccio quando parlava. Tuttavia, l'insegnamento di Ladislava doveva venire messo immediatamente alla prova, perché prima del giorno della candidatura Mr. Brooke si sarebbe dovuto spiegare ai degni elettori di Middlemarch dal bancone del Waite Art, che si affacciava in posizione favorevole su un angolo della piazza del mercato, dominando un'ampia zona sul davanti e su due strade convergenti. Era un bel mattino di maggio e tutto sembrava promettere bene. Vi era qualche speranza di un accordo fra il comitato di Baxter e quello di Brooke, a cui Mr. Bulstrode, Mr. Tendish, in quanto avvocato liberale, e industriali quali Mr. Plimdale e Mr. Vincey, conferivano una solidità che quasi controbilanciava Mr. Hale e i suoi accoliti, che sostenevano Pinkerton al Green Dragon. Mr. Brooke, consapevole di avere indebolito gli squilli del Trumpet contro di sé con le riforme apportate nelle sue terre negli ultimi 6 mesi e udendosi applaudire un poco mentre entrava in città in carrozza, si sentì il cuore abbastanza leggero sotto il panciotto color cuoio. Ma nelle occasioni critiche accade spesso che tutti i momenti sembrino confortevolmente remoti fino all'ultimo. Questo è un bello spettacolo, disse Mr. Brooke mentre la folla si stava raccogliendo. Avrò un buon pubblico ad ogni modo. Questo mi piace, ecco. Questo genere di pubblico composto dai propri simili, capite? I tessitori e i conciatori di Middlemarch, a differenza di Mr. Mosey, non avevano mai considerato Mr. Brooke un loro simile e non gli erano attaccati più di quanto lo sarebbero stati se fosse stato inviato da Londra in un pacco. Ascoltarono senza disturbare molto gli oratori che presentarono il candidato, sebbene uno di essi, un personaggio politico di Bressing, che veniva a dire a Middlemarch come fare il proprio dovere, parlò così a lungo che allarmava a pensare cosa potesse trovare da dire il candidato che avrebbe parlato dopo di lui. Frattanto la folla si infittì e mentre il personaggio politico si approssimava alla fine del proprio discorso, Mr. Brooke avvertì uno strano mutamento nelle proprie sensazioni. Mentre maneggiava ancora il monocolo, giocherellava con dei documenti davanti a sé e scambiava osservazioni con il proprio comitato, come uno a cui il momento della convocazione era indifferente. Prendo un altro bicchiere di sherry, Ladislav, e gli disse con aria non curante a Will, il quale gli stava subito alle spalle e immediatamente gli porse il supposto tonificante. Fu una scelta disgraziata perché Mr. Brooke era astemio e bere un secondo bicchiere di sherry in un fiato dopo un intervallo non molto grande dal primo, per il suo organismo fu una sorpresa che tese a disperdergli le energie invece di raccoglierle. Vi prego, abbiate compassione di lui. Tanti gentiluomini inglesi si rendono la vita un inferno facendo discorsi per motivi completamente personali. Mr. Brooke invece desiderava servire il proprio paese presentandosi come candidato al Parlamento. Il che certo si può anche fare per motivi personali, ma una volta intrapreso richiede assolutamente qualche discorso. Non era per l'inizio del discorso che Mr. Brooke nutriva qualche ansia. Questo ne era certo, sarebbe filato benissimo. Avrebbe detto a memoria, ritagliato perfettamente come un distico di poppa. Imbarcarsi sarebbe stato facile, ma la visione del mare aperto che si sarebbe potuta presentare dopo era allarmante. E ora le domande, gli suggerì il demone che si destava proprio allora nel suo stomaco. Qualcuno può farmi delle domande sui progetti? Ladislav, egli continuò ad alta voce, datemi il memorandum dei progetti. Allorché Mr. Brooke si presentò al balcone, gli applausi furono abbastanza sonori da controbilanciare le gridi, i lamenti, i ragli e altre espressioni di idee avverse, così moderate che Mr. Standish, decisamente una vecchia volpe, osservò all'orecchio di chi gli stava vicino. Questo ha tutta l'aria di essere pericoloso, per Dio. Ale ha qualche piano più astuto? Tuttavia gli applausi erano stimolanti e nessun candidato poteva apparire più amabile di Mr. Brooke, col memorandum nel taschino della giacca, la mano sinistra sulla ringhiera della balconata e la destra che si trastullava con il monocolo. I particolari del suo aspetto che colpivano maggiormente erano il panciotto color camoscio, la chioma bionda tagliata corta e la fisionomia scialba. Cominciò con una certa sicurezza. Signori, elettori di Middlemarch, questa era una cosa talmente giusta che una breve pausa dopo di essa parve naturale. Sono straordinariamente felice di essere qui. Non sono mai stato così orgoglioso e felice in vita mia. Mai così felice, sapete? Questa era un'audace figura retorica, ma non proprio la cosa giusta, perché disgraziatamente l'apertura del discorso a memoria gli era sfuggita. Persino dei distici di Pope possono essere solo cose che lasciano cadere, che svaniscono. Quando la paura ci afferra, un bicchiere di sherry si insinua tra le nostre idee come fumo. Ladislav, che stava alla finestra dietro l'oratore, pensò: adesso tutto è finito. L'unica possibilità è che, dal momento che la cosa migliore non sempre funziona, impappinarsi una volta tanto funzioni. Mr. Brooke, frattanto, avendo perso altre fila, tornò a parlare di sé e dei propri meriti, argomento sempre appropriato e grazioso per un candidato. Sono un vostro stretto vicino, miei buoni amici. Mi avete visto in tribunale per un bel po' di tempo. Mi sono sempre occupato molto di questioni pubbliche, macchine, ecco, rotture di macchine. Molti di voi hanno a che fare con le macchine, ultimamente ho studiato la cosa. Non va bene, sapete, rompere le macchine. Tutto deve procedere, il commercio, l'industria, lo scambio delle materie prime, cose di questo genere. Dal tempo di Adam Smith, questo deve andare avanti. Dobbiamo abbracciare tutta la terra, osservazione con ampie vedute. Dobbiamo guardare dovunque, dalla Cina al Perù, come dice qualcuno. Johnson, penso, The Rambler, sapete. Ecco quello che io ho fatto fino a un certo punto, non fino al Perù, ma non sono sempre rimasto in patria, mi sono accorto che non andava bene. Sono stato nel Levante, dove vanno alcune delle vostre merci di Middlemarch. E poi di nuovo nel Baltico. Il Baltico, ecco. Ricorrendo ai suoi ricordi in questo modo, Mr. Brooke avrebbe potuto procedere facilmente, avrebbe fatto ritorno dai mari più lontani senza difficoltà, ma il nemico aveva organizzato un piano diabolico. Nello stesso momento, al di sopra delle spalle della folla, quasi di fronte a Mr. Brooke e a 10 metri da lui, si era sollevata l'effigie di lui stesso, panciotto color camoscio, monocolo e fisionomia scialba, dipinti su uno straccio. Ed evidentemente si era alzata nell'aria, come la nota del cuculo, un'eco delle sue parole, pappagallesca e simile a quella del Pulcinella. Tutti levarono gli occhi alle finestre aperte delle case, agli angoli opposti delle strade convergenti, ma queste erano vuote o piene di ascoltatori che ridevano. L'eco più innocente ha un malizioso suono di parodia quando riproduce le parole di un oratore dalla tenace insistenza, e questa eco non era per nulla innocente, se non riproduceva con la precisione di un'eco naturale, aveva la malvagia scelta delle parole di cui si impadroniva. Quando disse: "Il Baltico, ecco!" Il riso che era serpeggiato nel pubblico divenne un grido generale. E se non fosse stato per la serietà indotta dal senso del partito e di quella grande causa politica che il garbuglio delle cose aveva identificato in Brooke di Tipton, il riso avrebbe potuto contagiare il suo comitato. Mr. Bulstrode, in tono di disapprovazione, chiese cosa stesse facendo la nuova polizia. Ma una voce non si poteva acciuffare e un attacco all'effigie del candidato sarebbe stato troppo equivoco dal momento che probabilmente Hawley aveva intenzione che diventasse un bersaglio. Mr. Brooke stesso non era in una situazione da potersi rendere conto bene di nulla, tranne che di una fuga generale di idee dentro di sé. Aveva persino un po' di ronzio alle orecchie ed era l'unica persona che non si fosse ancora accorta dell'eco o avesse distinto l'immagine di se stesso. Poche cose tengono prigionieri i sensi più completamente dell'ansia per ciò che dobbiamo dire. Mr. Brooke udì il riso, ma si era aspettato qualche tentativo da parte dei Tory di provocare disordini e in quel momento era ancora più eccitato dalla sensazione solleticante e pungente che il suo esordio perduto stava tornando a riportarlo indietro dal Baltico.